Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Italia-Israele, il sindaco di Udine De Toni ha convocato poco fa una conferenza stampa sulla partita che richiederà la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine e per la quale il comune già in estate aveva deciso di non concedere il patrocinio. I medici replicano a Riccardi sulle prescrizioni inappropriate, almeno il 60% di quelle dei medici di famiglia è indotto dal privato accreditato. Al Burlo Garofalo di Trieste la lista di attesa per gli interventi ginecologici si allunga di giorno in giorno per la grave carenza di anestesisti. Rimangono scoperte posizioni a doppia cifra. Nella notte caduti fino a 350 mm di pioggia sulle prealpi carniche e oltre 200 sulle prealpi giulie, causando smottamenti, allagamenti e cadute di alberi, disagi sui quali stanno intervenendo vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Durante la presentazione del vademecum contro le truffe a Udine, la denuncia in diretta di un cittadino che ha versato soldi ad una app per criptovalute. Un pubblico attento alla sostenibilità, gli organizzatori della Barcolana moltiplicano le iniziative di sensibilizzazione sul rispetto dell'ambiente. Buongiorno da Lara Zani e Nada Cioc. È in corso in questi minuti la conferenza stampa convocata dal sindaco di Udine De Toni sulla partita Italia-Israele e sul patrocinio all'evento sportivo che si terrà al Friuli lunedì 14 ottobre. Una partita che sta richiedendo la massima attenzione da parte degli organi di sicurezza che domani si riuniranno in prefettura per gli affinamenti della macchina organizzativa per l'impiego delle forze dell'ordine che dovranno vigilare anche su una manifestazione a favore del popolo palestinese. Ricordiamo che l'amministrazione comunale in estate aveva deciso di non concedere il patrocinio alla partita di Nations League. Su quanto sta emergendo in questi minuti vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Tra le cause delle liste d'attesa, secondo la Regione, le troppe prescrizioni di esami specialistici, anche quando non è necessario, magari per assecondare autodiagnosi fatte dagli stessi pazienti utilizzando il web. Sotto accusa i medici di medicina generale, che però respingono le critiche al mittente. Accuse gravissime, uno schiaffo alla categoria, commenta il presidente regionale del sindacato autonomo dei medici SNAMI, Vignando, che per primo respinge la critica rivolta dalla regione ai medici di famiglia di prescrivere troppi esami specialistici anche quando non necessari, con la conseguenza che le liste d'attesa si allungano. Sul dato dell'aumento del 44% negli ultimi anni delle prescrizioni inappropriate, riferito da Riccardi, Vignando si domanda da dove sia uscito, chi lo abbia calcolato e come, senza poi alcun confronto sul tema con la categoria, pur richiesto da anni. Ricorda che almeno il 60% delle prescrizioni dei medici di famiglia è indotto dal privato accreditato, che obbliga i pazienti a ripassare dal proprio medico per la trascrizione di prestazioni decise da altri, intasando gli studi. Vignando rileva inoltre che la Regione non ha mai normato compiutamente le regole prescrittive in carico agli specialisti del privato accreditato e ciò ha generato lo scaricare sui medici di famiglia l'inappropriatezza delle prescrizioni. Da medico di famiglia non ci sta a sentirsi sotto accusa anche il responsabile del CEFORM e del corso di formazione specifica dei medici di medicina generale, Gangi, che controreplica: se gli ospedali funzionassero a dovere come anni fa, non ci sarebbero liste d'attesa immorali come quelle odierne e i medici di famiglia non dovrebbero essere costretti a forzare le priorità anche dietro spinta dei CUP e delle segreterie dei reparti che consigliano ai pazienti di far cambiare dal proprio medico le priorità delle impegnative per accelerare i tempi di visite specialistiche e controlli. Quanto all'inappropriatezza clinica, Gangi chiede di vedere i dati per verificare eventuali errori, chiede lumi sui numeri delle prescrizioni appropriate anche il segretario regionale della FIMG Agrusti, che richiede pure di accertare quante siano state suggerite da altri specialisti, cosa verificabile dato che il medico di famiglia può indicarlo nella prescrizione. Agrusti conferma che il sistema ha diverse criticità e come soluzione indica l'applicazione degli indicatori del Ministero della Salute che stabiliscono già per ogni tipo di sintomo la priorità da mettere nell'impegnativa. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La carenza di organici nella sanità pubblica a Pordenone è pesantissima. C'è una copertura complessiva di 81 lavoratori ogni 10.000 abitanti. I numeri questa volta vengono forniti da CGLFP, che in questi giorni, nell'ambito della campagna nazionale Curiamoci di Noi, sta incontrando i lavoratori della sanità del Friuli Venezia Giulia. Con 2.500 tra medici, infermieri e OSS per 310.000 abitanti, spiega Pierluigi Benvenuto della CGL, ASFO è di gran lunga l'azienda sanitaria in regione con la più bassa presenza di personale sanitario in rapporto alla popolazione, 81 lavoratori ogni 10.000 abitanti contro i 120 di Asugi e i 119 di ASU-FC. E se è vero che dal 2021 al 2023 il personale ASFO non è calato, questo è dovuto soltanto all'ingresso di 88 OS assunti tra il 2021 e il 2023. Grave carenza di anestesisti al Burlo e ciò fa allungare i tempi di attesa degli interventi ginecologici. Attualmente sono 200 le pazienti in lista, una lista che si allunga di giorno in giorno. Al Burlo Garofalo di Trieste le sale operatorie per la ginecologia sono in sofferenza, in particolare in questo mese di ottobre sono state ridotte del 25%, in particolare per la carenza di medici anestesisti. La direttrice sanitaria del Burlo Garofalo, la dottoressa Paola Toscani, ci spiega come hanno pensato di risolvere questa cronica carenza di anestesisti che riguarda in realtà tutto il paese. Allora, diciamo che per risolvere questa criticità abbiamo provveduto a bandire un concorso con assunzione degli anestesisti mancanti. Purtroppo le persone assunte potranno prendere servizio non prima di dicembre-gennaio, quindi per far fronte all'attività di questi mesi stiamo studiando diversi strumenti, fra i quali anche la possibilità di ricorrere a professionisti in libera professione con completamento delle sedute operatorie mancanti. Quante sono al momento le donne in attesa di interventi con priorità alta fino alle priorità meno alte? Come specificato prima, per quanto riguarda la priorità A, che è quella caratteristica delle pazienti oncologiche, il tempo d'attesa viene normalmente rispettato, questo è anche un dato che ci viene riconosciuto dai principali programmi così di monitoraggio sia regionali che nazionali, mentre chiaramente stiamo andando in sofferenza per quanto riguarda pazienti con patologia benigna che sono state caricate in lista d'attesa con priorità più lunghe, quindi priorità B, C o D. Queste complessivamente il numero di pazienti in attesa per ricovero ordinario per intervento chirurgico sono circa 200. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo al maltempo. Nella notte sono caduti fino a 350 mm di pioggia sulle prealpi carniche, oltre 200 mm sulle Giulie, causando smottamenti, allagamenti e cadute di alberi, disagi sui quali stanno intervenendo vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Il personale di FVG Strade delle ditte locali è ancora al lavoro per rimuovere la ghiaia che impedisce all'acqua di defluire e lo stesso ha fatto dal pomeriggio per tutta la notte di ieri per permettere alla gente di Barcis di rientrare alle proprie case. Questa è l'unica strada per raggiungere anche i comuni dell'Alta Valcellina senza passare per il Veneto. Ieri il rio Arcola è tracimato, lo scarico sommerso da detriti, ma quasi tutti i rii sul versante montano ormai non riescono più a scaricare. Il ponte sul Varma, realizzato anni fa per ovviare al problema, è al limite, il livello della ghiaia è quasi all'altezza del ponte e il Cellina è ormai una distesa di ghiaia. Bastano precipitazioni anche modeste per mandare in tilt viabilità e sviluppo di un intero territorio. Il sindaco di Barcis, Claudio Traina. Questo territorio paga lo scotto, il prezzo di una mancata gestione del bacino, di una mancata gestione di tutta l'asta. Sono situazioni ormai che prevedibili, io mi appello alla Regione, che la Regione rispetti gli impegni che si è presa nel 2019, in particolare l'assessore Scocimarro, che è l'assessore che ha la delega all'ambiente. Non possiamo parlare, non pensare che la nostra gente non riesca a tornare a casa, non riesca ad andare a lavorare, non metterli nelle condizioni di muoversi in sicurezza. Non possiamo parlare di sviluppo di queste zone se non riusciamo a garantire la viabilità. Ieri sono stati superati 200 mm di pioggia a Piancavallo, strade allagate anche a Poffabro e intanto a Pordenone, passata la piena del Meduna, resta osservato speciale il Noncello. Chiusi precauzionalmente nella giornata di oggi il parcheggio Rivierasca e il parco del Seminario. Barcis, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al meteo, cielo da nuvoloso ha coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 19,5 gradi, a Gorizia 19, a Udine 17,5, a Pordenone 16,5, a Tolmezzo 16 gradi, a Tarvisio 15, a Forni di Sopra 13,5, a Piancavallo 12, a Sappada 10,5. Sul Monte Lussari 8,5 gradi, sul Monte Zoncolan 7,5 gradi, a Grado e Lignano 18 gradi. Le previsioni dell'ARPA, il cielo in prevalenza coperto sulle prealpi, variabile o nuvoloso sulle altre zone, con più sole verso la costa e sul Tarvisiano. In giornata saranno ancora possibili delle piogge sparse in montagna e sulle zone orientali, sulla costa soffierà a tratti libeccio moderato. Importante operazione della polizia locale della comunità di montagna della Carnia, che ha sequestrato armi bianche quali pugnali e baionette, sostanze stupefacenti e strumentazione utilizzabile per la coltivazione della cannabis, quali una serra di materiale sintetico, diverse lampade UV, ventilatori, deumidificatori, fertilizzanti chimici, termometri e cataloghi cartacei contenenti istruzioni e dosaggi per la coltivazione della cannabis. I sequestri sono stati effettuati nella provincia di Udine. L'operazione era partita da un comune carnico a seguito di un'indagine per la repressione della coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente a tale indagine, in attuazione a diversi decreti di perquisizione emanati dalla Procura di Udine nei confronti di soggetti italiani di età compresa fra i 34 e i 50 anni di età, residenti a Udine nel suo hinterland. La Guardia di Finanza di Udine ha individuato 28 imprese fantasma che hanno permesso di evadere 2 milioni di euro. Sono state denunciate 2 persone. L'indagine penale coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine trae origine da una verifica fiscale effettuata nei confronti di un bazar che ha fatto ricorso sistematico all'utilizzo di fatture per operazioni rivelatesi inesistenti. Controlli incrociati indirizzati a clienti e fornitori del bazar udinese hanno evidenziato complesso sistema fraudolento di imprese cosiddette cartiere che facevano operazioni fittizie e mettevano fatture per operazioni inesistenti da inviare a soggetti compiacenti per abbassare l'imponibile e quindi evadere le tasse. La Polizia di Stato di Udine assieme al Comune di Udine ha presentato un vademecum per i cittadini per evitare di incappare nelle truffe. Truffe agli anziani così diffuse che durante un incontro di sensibilizzazione organizzato dalla Questura in collaborazione con Comune e Polizia Locale di Udine assistiamo in prima persona ad una frode in corso proprio in quel momento. Uno dei presenti, convinto da una pubblicità ingannevole dove era simulata la presenza di personaggi famosi, dice di aver versato i primi 250 euro ad una fantomatica società di criptovalute. I soldi virtuali crescono solamente nell'app installata, non certo nel conto in banca. Cominciando da 250 euro, sì, e se, vedendo loro sono detto, ma chissà, solo per quello? Boh, ci ho provato, capisco che la cosa adesso è arenata. Man mano che il momento di formazione prosegue, emergono testimonianze dirette o indirette di raggiri. Cosa le è successo alla vicina? Niente, con una telefonata che il figlio era successo un incidente. È successo appunto che l'hanno chiamata, mi pare il nipote aveva avuto un incidente. Il finto maresciallo che chiama chiedendo una cauzione per liberare un congiunto, neanche fossimo in America. Oppure il ciao mamma, ho rotto il telefono, scrivimi su questo numero. Pochi semplici consigli, diffidare dalle chiamate al telefono fisso perché i truffatori sanno che ormai sono solo gli anziani ad averlo. Prudenza e denuncia immediata, senza paura del giudizio degli altri. Commissario capo Matteo Cozza dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Udine. Farsi una domanda in più, porsi un dubbio, perché non ci sarà mai una situazione emergenziale che è rimessa nelle nostre sole mani. Facciamo una telefonata in più. Eros Del Longo, comandante della Polizia Locale di Udine. Noi stiamo portando avanti adesso il progetto, quello della sicurezza partecipata, che ha appunto la funzionalità di creare quel senso di comunità che si è persa, quindi inducendo i cittadini dei vari quartieri a far rete tra loro. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Si riunisce questo pomeriggio al Castello di Udine l'Assemblea Congressuale Regionale di ANCI, chiamata a rinnovare gli organi dell'Associazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia. A seguire si terrà l'Assemblea Precongressuale Nazionale, che dovrà eleggere i 21 delegati che spettano alla nostra regione per l'elezione del nuovo presidente nazionale di ANCI in occasione dell'Assemblea Nazionale convocata a Torino il 20 novembre. Sarà l'occasione oggi per i sindaci della regione di discutere anche i temi di più stringente attualità che toccano da vicino la vita degli enti locali, dei cittadini e delle imprese del territorio. Trieste respira ormai aria di Barcolana e gli organizzatori hanno potenziato le iniziative di sensibilizzazione verso la sostenibilità nei confronti degli equipaggi e del pubblico che affollerà le rive, il Ciglione Carsico. Abbiamo sentito Piero Zecchini, direttore della Barcolana. Una grande festa della vela e dello sport, ma anche una festa delle buone pratiche da mettere in atto per vivere la regata dei record rispettando l'ambiente. Si potenzia l'impegno della Barcolana per la sostenibilità con nuove iniziative di sensibilizzazione, in particolare verso il pubblico che affolla durante la regata le rive di Trieste e il Ciglione Carsico. Piero Zecchini, direttore della Barcolana. Penso al decalogo della sostenibilità, dove chiediamo ai nostri sia espositori che visitatori di, come dire, attenersi a certe regole. In particolare ci sono dei partner con i quali stiamo lavorando molto sulla raccolta differenziata, su una buona educazione di rispetto del territorio. In Piazza Unità poi c'è una struttura allestita dal biodiversitario marino, il Museo Immersivo dell'Area Marina Protetta WWF di Miramare. Spiega soprattutto a un target giovane, di studenti, di bambini, eccetera, qual è proprio la pratica migliore e che cosa significhi oggi rispettare il mare. Quindi invito tutti a venirlo a vedere, perché è una realtà immersiva, una struttura molto bella che ti fa capire con degli schermi, con delle immagini molto, molto chiare, che cosa significhi aver rispetto del cuore del mare. Tanti visitatori e turisti significano un grande giro d'affari per il territorio, ma anche una mole maggiore di rifiuti da gestire, plastica in particolare, per la quale la Barcolana quest'anno ha trovato un'innovativa soluzione. Dei bicchieri da collezione, così da incentivare le persone a tenerli e portarli a casa e quindi in qualche maniera combattere lo spreco, l'uso eccessivo della plastica. E quindi con questa piccola idea molto creativa creiamo comunque di riuscire a contenere l'impatto. Sostenibilità anche in mare, in questo la Barcolana ha fatto da apripista. In fase di iscrizione a ogni squadra è richiesto di indicare una persona che sia la figura di riferimento per l'ecologia, cioè il RECO, il responsabile ecologico. Lo facciamo già da diverso tempo ed è un qualcosa che, insomma, come dire, stimola gli equipaggi ad avere dei comportamenti responsabili durante la navigazione, ma di fatto i velisti lo sono. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia si sta presentando al TTG Travel Experience, la più importante fiera del settore turistico con la formula business to business, in programma fino a venerdì alla fiera di Rimini con Go 2025, i nuovi collegamenti aerei da e per Trieste Airport, le eccellenze enogastronomiche raccolte sotto il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Allo stand di Promoturismo FVG una trentina di operatori tra strutture ricettive, agenzie di incoming, rete di imprese e consorzi di tutto il territorio. A soli due giorni dall'apertura del bando regionale per la dismissione di impianti di riscaldamento vetusti e l'acquisto di nuovi più performanti, sono state presentate ben 417 richieste di contributo per un valore complessivo pari a 540.000 euro sui 3 milioni di euro disponibili. Alla luce dell'elevata adesione al bando, fa sapere l'assessore per la difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, la Regione è pronta a stanziare ulteriori risorse qualora il numero di richieste continui a crescere. Il bando mette a disposizione fondi regionali per il passaggio a nuovi impianti di riscaldamento a biomassa più efficienti per ridurre l'emissione di sostanze nocive come il benzoapirene, garantendo un ripristino dei valori nelle aree interessate sotto alla soglia di attenzione. Tutte le informazioni necessarie per presentare la domanda di contributo sono presenti sul portale web della Regione. I solisti di Zagabria, sotto la guida di Stretan Krstic, già primo violino solista dei Filarmonici di Monaco, aprono il cartellone Cromatismi della stagione cameristica di Chamber Music Trieste. Nel programma dei solisti un viaggio attraverso pagine dei maestri che trovano le loro radici fra l'Est Europa e i Balcani e anche una partitura del compositore croato Ivo Josipovic, noto ai più per essere stato presidente della Repubblica di Croazia dal 2010 al 2015 e che fu assieme al presidente Napolitano e al presidente sloveno Türk in Piazza Unità a Trieste nel 2010 allo storico concerto di Riccardo Muti. Il concerto dei solisti di Zagabria alle 20.30 al Teatro Miela. Il Sud globale e la contestazione dell'Occidente, BRICS e UE, un rapporto da ridefinire, è il tema dell'incontro promosso da Dialoghi Europei al quale parteciperanno Paolo Gozzi e Franco Bruni. presidente dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale, alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste. Nell'ambito delle iniziative legate al 70° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia, il Comune di Trieste organizza una visita guidata della mostra Lunario Triestino 1953-1954 alle 17.30 a Palazzo Gopcevic. La curatrice responsabile della fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte, Claudia Colecchia, illustrerà il percorso espositivo, un diario visivo che documenta i 13 giorni del novembre 1953 fino all'effervescenza connessa al ritorno all'Italia dell'ottobre del 1954. Ci ha anticipato quello che si potrà vedere. Nella mostra si possono trovare una serie di immagini legate al periodo del 1953-1954. Infatti si propone un lunario fotografico scandito cronologicamente in 15 mesi in cui si raccontano i grandi avvenimenti dalle tragedie del novembre 53 fino all'effervescenza connessa al ritorno all'Italia nel 54, senza dimenticare la vita quotidiana. Quindi il rinnovarsi dei negozi, la vita culturale con il circolo della cultura delle arti, le fiere e poi le foto iconiche di questo periodo come il bacio di Ugo Borsatti, in cui si racconta questo bacio che per tanti anni viene considerato un bacio d'addio tra John e Graziella e che poi si scopre essere un semplice arrivederci. Da dove arriva tutto questo materiale? Il materiale è tutto presente in fototeca, Palazzo Gopcevic. La fototeca consta di circa 3 milioni di fotografie e per l'occasione della mostra è stata fatta un'accurata ricognizione dei fondi dei fotografi Ugo Borsatti, Adriano De Rota, l'agenzia Journal Photo e poi Livio Amstici e Gianni Anzalone. A fianco anche sono stati consultati l'archivio storico comunale e l'archivio donato dalla famiglia del sindaco Gianni Bartoli. Oltre alle foto si possono trovare anche altri oggetti come una lambretta, perché i fotografi si spostavano spesso in moto oppure in auto, e in mostra è esposta una Topolino con accanto la foto di Ugo Borsatti che con la sua Topolino raggiunge Duino proprio il 26 ottobre del 54 per abbracciare e salutare l'arrivo dell'esercito italiano. E con questo chiudiamo questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Lara Zani e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Riccardo Stoici e Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Samantha Gonda. Tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.